toba tu se mindule o mindule ke senye na kebedele temwena biso kaka banjelu bato ya libanda nde bakati likambo biso to banga magungu teo na kata lipopo mboka to mesene lelo ya saki bolingi tembeo oye koya eya tembe ya toba tu se mindule o mindule ke senye Bajelu, Batoyali Bandan de Bakatili Kambo. Bisato Banga Mangunguteo, Nakachali Popo. Mo piato, mo piato, mo piato, mo piato, mo piato.